They say you can have anything you want if you get down on your knees and you play. I've got no time to beg forgiveness, I'm just scraping from day to day. And then they say yeah, there's a new sensation, a spark of hope from another generation. So I'm looking for motivation, but all I'm seeing is exploitation. Well, you won't get me in a stone house. You won't hang me on your roof. I might be just an hour and a half sticking in your boots. Say you can have what you desire, all you got to do is sell your soul. I've got no reason to believe in a devil when I'm looking for the ultimate goal. Then I tell you there's no solution. Get in line for the next revolution. And if you find your contribution, you're there in another institution where you're not getting paid. E bentornati a una ennesima puntata di Chioccoli al Silicio, Coccoli, non Chioccoli. Era un po' che non trasmettevo, quindi ho deciso di approfittare della caldissima estate per venire a morire di caldo nella Wombat regia e mi sono così messo a fare una nuova trasmissioncina. Sarà breve perché perdo 5 kg praticamente ogni 10 minuti di permanenza in queste stanze arroventate e di conseguenza tento un pochino a abbreviare i tempi per riuscire a sopravvivere e arrivare anche alla settimana prossima e pensare che ne faccio anche un'altra di puntata. E quest'oggi volevo aprire con un po' di notiziole random, spot e cose così poco impegnative estive da pre-ombrellone o forse già ombrellone e luglio, io non me ne sono accorto perché tanto c'è stato Hack Meeting quest'anno ma si è fatto un po' prima del solito, questo mi ha stranito, per cui per me praticamente ormai è settembre e si torna già tutti a lavorare, l'estate è finita, in realtà è solo luglio e di conseguenza non è vera questa cosa, però vabbè. Le notizie di oggi in realtà sono un po' riprese dal mondo dell'infosec mondiale, però mi piaceva fare una puntata monografica visto che sono uscite un sacco di cosine che riguardano software, free software open source di comune utilizzo e ci sono un po' di novità tecnicose, quindi volevo fare così una puntatina tecnicosa da appunto da ascoltare sotto l'ombrellone se siete degli appassionati di queste cavolate. La prima cosa è uscita fresco oggi che è OpenSSH, che è un tool che penso svariati di voi avranno utilizzato qualche volta nella vita. Ebbene, esso aveva un problema, non nasceva dal fatto che lui è fatto particolarmente male, ma nasceva dal fatto che i computer su cui viene fatto girare spesso non sono fatti benissimi. Esiste questa classe di attacchi che si chiama side channel, di cui si è parlato in questi anni, sarebbero quelle cose che sfruttano diciamo le scarse protezioni che ci sono a basso, molto basso, molto molto basso livello nella gestione del passaggio di dati nei vari compartimenti dei processori, laddove per mantenere alta l'efficienza non si può fare grossi controlli di permission eccetera, quindi è un'area in cui tutto è lecito e tutto è permesso. Ebbene, esistevano, sono stati fatti, di più famosi sono Meltdown, Spectre, ma ce ne sono diversi altri tipo Rowhammer, Rumbled, insomma ci sono diversi attacchi chiamati side channel attack di questa famiglia di attacchi. E guarda cosa avevano in comune tutti codesti attacchi, a parte l'essere dei side channel, che una delle cose che si ravanava e si andava a cercare in memoria erano appunto le chiavi SSH. Perché? E perché è una cosa estremamente utile effettivamente, cioè tutte le cose che posso rubare che dovrebbero essere dei segreti, questa è abbastanza fica da avere. Perché magari appunto significa che poi mi posso loggare su una macchina con dei privilegi che io non avrei. E di conseguenza OpenSSH si era messa di buzzo buono e ha finito ora di scrivere una patch per fare in modo che le chiavi in memoria stiano cifrate. Non è chiaramente la soluzione definitiva, è una pezza al problema. Allora dicono: noi diciamo la toglieremo perché chiaramente questa cosa avrà un costo, probabilmente in termini di difficoltà di gestione di persone, che cavolo ne so io. E quindi sostanzialmente quello che vorrebbero fare è prima o poi eliminarla, questa patch, però hanno detto magari tra un paio d'anni, quando i processori li faranno un pochino meglio, o comunque boh, quando sarà rientrata questa cosa dei sidechain nell'attack, così strana, cioè così tendenzialmente de devastanti, almeno a livello teorico, per questo tipo di dati che appunto uno si premura di tenerli tutti segreti, segreti, e poi alla fine arriva il sidechain l'attacco e te lo svela direttamente dalla memoria. Cattivo. E vabbè, comunque, e sappiate che penso che i repository, cioè se usate dei repository Linux, probabilmente gli aggiornamenti saranno automatici. E se volete guardare la patch pubblicata, dateci, se siete proprio pazzi, folli, che non vi annoiate tantissimo, andate a guardare il codice, oppure anche no. Ora vi faccio sentire ancora un po' di musichina, mi preparo la seconda notiziola. Quelli che stiamo ascoltando adesso sono gli Stranford Mercenaries, che sono un gruppo di un sacco di gente interessante, tra cui io mi ricordo ad esempio che ci cantava, mi sembra, Steve Ignorant, quello dei Cress, e c'era anche qualcuno dei Buzzcocks che ci suonava dentro. Comunque è un gruppo che ha fatto pochi album, un paio nel 98, hanno fatto anche un tour in Italia, ve lo dico così perché io li ho visti, è per quello che se non ve lo dicevo, non l'avrei saputo altrimenti. Nor stand by and watch as they destroy and disease what is partly mine and is all ours. E riprendiamo a parlare sempre di bug e cose simili. Questa volta l'interessato è un altro tool parecchio utilizzato, questo anche da utenti non particolarmente desiderosi di possedere una shell remota, o che non sono diciamo costretti per qualche arcano trigo del destino a doverla utilizzare, tipo per quella cosa bruttissima che si chiama lavoro. Però tendenzialmente il tool di cui vi volevo parlare, il programma, è una roba molto più ludica, che uno di solito ci sente la musica e ci vede i video, che è VLC. Ebbene, VLC ha rilasciato delle nuove versioni perché sono uscite due bug abbastanza grossi, cioè relativi, insomma, però tendenzialmente avevano si palesava la possibilità di eseguire del codice sulla macchina di chi vedeva il video, vedendo dei video particolarmente mal formati, e di conseguenza insomma sarebbe una cosa importante che questa cosa non accadesse, cioè se uno vede un video malevolo sul proprio computer, è brutto se poi questo video, oltre a diciamo, esegue anche del codice, no? Perché uno si aspettava di vedere un dato, cioè di prendere un dato che faceva il dato, il suo mestiere di dato. Se poi questo dato finisce che poi esegue anche il codice, uno ci rimane male. Niente, questi bug, che forse è la cosa più interessante, ma a parte sono due bug, penso tecnicamente di quelli forti, perché uno è una double free qualcosa che su una libreria che è la zlib decomprex extra, c'è già una roba così, suona un sacco super arrapante, e l'altro è un read buffer overflow. Una cosa più classica, diciamo. E diciamo che entrambi questi bug hanno dei proof of concept che però dimostrano solo che schiantano, mi sa, il VLC, e quindi l'attacco è potenziale, è tutto da vedere se è fattibile ed è realizzabile davvero, però, la cosa forse più interessante è come li hanno trovati, cioè li hanno trovati utilizzando un tool che io vi vorrei dire anche come si chiama, ma non me lo ricordo più. Cavolo, me l'ho preparato, eccolo qua. Ong Fuzz, scritto con due G, Ong e con l'H davanti, che è una roba sviluppata da Google in realtà, che pare essere questo fuzzer che loro la fanno facile da utilizzare, però in realtà a me mi sembra una roba un pochino di quelle complicate come tutti i fuzzer d'altra parte, però è interessante perché entrambi i bug li hanno trovati con questo fuzzer, quindi vuol dire che se ben configurato probabilmente fa il suo porco mestiere. E questo Ong Fuzz appunto è una roba Ong Fuzz, è interessante perché per il tipo di approccio, nel senso che funziona molto bene se possedete i sorgenti, che richiede di essere compilato insieme al programma, inserire delle specie di sonde se vogliamo in questo programma e poi lavora per inserire input formati male, questo però automatizza un casino il tentativo di creare errori, no? Nel senso che altrimenti la ricerca mera di un errore sarebbe almeno su, che ne so, formati video, eccetera, una roba quantomeno complessa perché tu dovresti conoscere abbastanza bene il formato, riuscire ad aggeggiare il formato nelle sue varie parti, no? Per vedere come reagisce il programma quando quello che gli arriva è formato male. Se tu hai un oggetto che in automatico ti fa questo lavoro, te puoi solo andare a vedere i risultati sostanzialmente, che è la cosa forse più semplice da fare, visto che i computer quello sanno fare, compiti ripetitivi, eccetera. Se lo devo fare tutto a mano io, c'è tutta la mia intelligenza sprecata sostanzialmente. E, no, vabbè, è una quindi forse più interessanti dei bug questa segnalazione di questo oggetto Ong Fuzz che io non ho mai utilizzato, l'ho visto oggi per la prima volta e ho detto, boh, guarda che bello oggetto, quasi quasi lo dico in trasmissione che c'è. Ora andiamo magari a sentirci un altro pezzo musicale e poi continuiamo con le notiziole dall'Infosec in versione estiva fatta, selezionata da me medesimo in persona, quindi bassa qualità. La prossima notizia è abbastanza buffa, nel senso che è tanto comodo avere Linux, no? Perché fa tante cosine e qualche volta uno si adatta un sacco a utilizzarlo e dice, cavolo, però io mi trovo veramente male a fare le cose con gli altri sistemi operativi perché ormai sono abituato a farle con quello che uso sempre che è sto Linux. Per fortuna, no? Ci vengono in soccorso queste mini distro, queste cose che sono sempre buone, no? Cioè tu ce l'hai, zac, lo tiro fuori e in un attimo svolto quelle cose che io sapevo fare solo su Linux e su Windows e Mac OS X, no? Devono aver pensato questo anche dei miner, cioè quelli che ti cercano di inoculare i malware per usare i tue risorse macchina per minare monete, quindi i malware, i miner, quelli cattivelli. E che tanto che hanno concepito, hanno creato un malware che al posto di fare le classiche cose che fanno questi tipi di oggetti, per farle in maniera più comoda e più precisa, sostanzialmente ti installa una VM con Linux sulla macchina e poi ci fa girare il mining là dentro, che è super forte come approccio. Cioè, non è, io lo apprezzo anche se tendenzialmente non mi sembra proprio super poco sgamabile, no? Nel senso che non è che tutti hanno il computerone e magari te ne accorgi se c'hai un due cose che ti succhiano la RAM e le CPU. Però magari invece no, sei abituato allo spreco di risorse. Comunque queste due immagini, perché ne lanciava ben due di immagini quando si installava, pare succhiassero 128 MB di RAM e una CPU, quindi magari erano anche a risorse veramente contenute, non è che volevano subito strafare, così almeno te non te la non ti non ti diciamo non ti insospettivi troppo. È vero che comunque scaricavano cioè un'immagine mica tanto tanto piccola, perché scaricavano 130 mega di immagine di QEMO sulla macchina, che non è proprio cioè, insomma, non è proprio piccola, piccola. Poi non so, perché tutti sono abituati a file grossi, grossi, grossi, grossi, e quindi magari, boh, non lo so. E fatto sta che sostanzialmente mi sembra un oggetto comunque tecnicamente carino, e soprattutto bella questa idea di dire: se non mi piace il sistema operativo, io per il malware me lo scarico. Mi metto il mio, quello che mi piace a me, perché è giusto. Cioè, uno deve anche lavorare comodo, non è che si può sempre stare a lavorare con i sistemi operativi degli altri. Io mi metto il mio e poi fo i comodi miei. Ma a me mi sembra un approccio giusto e co corretto e per nulla esecrabile. Ecco. Prossima e forse anche ultima notiziola della serata per questa puntata, forse molto troppo veloce, infatti ora vedo se mi viene in mente qualcos'altro da raccontare, e riguarda invece Firefox. Perché in queste ultime 2 settimane sostanzialmente sono usciti, perché trovati, come si dice, in rete sostanzialmente, già utilizzati da qualcuno, due Zero Days, che venivano utilizzati in the wild, ecco, per inoculare dei malware. Questa cosa è interessante perché, uno, perché hanno rilasciato una nuova versione di Firefox che patchava questi problemi, ma anche perché Tor Browser si basa appunto su Firefox, e quindi di conseguenza cosa è successo? Che anche Tor Browser ha dovuto rilasciare una patch. E quindi quello che accade, e pare che comunque di mezzo ci sia sempre il mining delle cripto maledette monete, cioè, che saranno dei malware che alla fine ti aggeggiavano il browser per cercare di andare a installare cose che poi andavano a utilizzare le tue risorse macchina per fare mining sostanzialmente. Questi due CCVE hanno sostanzialmente, diciamo, costretto, ecco, costretto anche l'aggiornamento di Tor Browser, anche perché uno era un sandbox escape, cioè una vulnerabilità che permetteva di uscire dalla sandbox di Firefox, che è una, diciamo, una feature di sicurezza non indifferente, senza la quale Tor Browser avrebbe probabilmente poco senso. E l'altro invece era un type confusion bug, di cui non so tantissimo, però sostanzialmente la somma di questi due permetteva a un attaccante di eseguire codice arbitrario sulla macchina della vittima, che appunto non è una cosa troppo bella, e tutto questo lo permetteva semplicemente convincendolo ad andare su un sito cattivello, un sito di quelli un po' cattivelli. E nel dettaglio non ho approfondito molto tecnicamente questi due cosi. Sarebbe probabilmente interessante farlo, ma fa caldo e non c'ho voglia. Però appunto era per dirvi che alla fine della fiera, in un paio di settimane, hanno aggiunto una roba a OpenSSH per questo problema dei sidechain nell'attack. Poi hanno aggiornato VLC perché ci stava che ci fossero dei problemi con possibilità magari di eseguire codice da remoto. Poi c'è questa roba di Firefox, con conseguenza Tor browser, e quindi insomma è stata una settimana, cioè sono state due settimanine, mica da poco, ecco. Quindi ora un altro po' di musichina. Poi ho trovato ancora una notizia da dare che avevo visto oggi, e se la ritrovo ve la racconto, perché comunque è interessante, visto che stiamo parlando di mining, sostanzialmente sempre di quello fraudolento. C'è anche l'altro modo per fare soldi in maniera fraudolenta, sempre simile al mining, è quello dei ransomware, e c'è una roba buffa che è accaduta proprio in questo mondo, cioè in quegli strani malware che vi cifrano il disco e poi vi chiedono dei soldi per decifrarlo, che però ve la racconto tra un attimino. No, non ve la racconto tra un attimino perché la musica che avevo messo è tristemente finita, quindi magari ecco, vi metto un altro pezzettino e poi faccio la pausetta musicale e mi preparo. Maledetta, maledetta musica. Allora, la notizia con cui andiamo veramente a chiudere la puntata questa volta è una cosa che appunto riguarda il mondo dei ransomware, e in particolare è stato rilasciato un tool da parte di, non mi ricordo più quale, Bitdefender forse, sì, Bitdefender ha rilasciato un tool che fa parte di un progetto più ampio che si chiama No More Ransom. Insomma, cosa fa questo tool? Permette di decrittare gli hard disk cifrati, i dati cifrati con GandCrab, che è un tool di cui si è parlato parecchio negli ultimi 2 anni. Era un ransomware di quelli che andavano più per la maggiore, più che altro perché avevano fatto un business abbastanza interessante, che sostanzialmente loro vendevano questo tool configurabile con sostanzialmente una presa per il culo di tutto quel mondo del cloud, no? Di quel tipo di terminologia. Cioè loro offrivano un servizio che chiamavano Ransomware as a Service, cioè RAS, che è una, diciamo, una nomenclatura che chi di voi ha a che fare con gli ambienti cloud forse conosce, no? Riecheggia un po' le cose tipo infrastructure as a service o tutte queste cose qua che vanno molto di moda oggi. Ecco, loro ti offrivano una comoda piattaforma dove tu configuravi il tuo ransomware e poi lo inoculavi. Loro ti offrivano già delle cose, delle feature di comodità, no? Nel senso che lo potevi inoculare con le email per il phishing, insomma, te lo sistemavano un po' già per bene in base alla campagna che andavi ad eseguire, e pare che così si siano acchiappati qualche bella milionata, ma parecchie milionate di vittime. E la cosa interessante è che questa cosa, cioè diciamo, questo servizio è stato di recente chiuso. È stato di recente chiuso perché sostanzialmente chi l'aveva aperto ha detto: "Va, guardate, comunque ci è andata abbastanza bene. ci è andata abbastanza bene e abbiamo fatto abbastanza soldi. Poteva andare meglio, ma noi ci accontentiamo e quindi chiudiamo qua. Chiudiamo Baracca e Burattini, grazie a tutti per averci supportato. E quindi è una roba abbastanza buffa. Se comunque siete stati colpiti da questo ransomware e non avete voluto pagare, ora quelli di Bitdefender hanno rilasciato un tool per decifrare a gratis il vostro disco, a meno che non ve ne siete ormai fatti una ragione. E giustamente abbiamo detto: ma sai, che cazzo me ne frega, cioè tanto comunque erano solo i miei inutili dati, che è comunque la filosofia sempre migliore. It's just another one other. Just another sucker to win.